Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Basta fregando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai espellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! Prima cosa. Prima cosa piantare i picchetti. Ah, i picchetti. E li vado a prendere. Quanti di voi hanno passato una vacanza, seppur misera, veloce, transeunte, infantile, dentro la tenda, sotto una tenda, montando una tenda? Io pensavo ed ero convinto che fosse una forma micragnosa di fare le vacanze massacranti, con tre soldi in tasca, cercando di visitare il più possibile e spendere il meno possibile, relegata alla mia generazione, che ancora viaggiava in autostop con la tenda canadese sulle spalle. Era sempre un disastro, perché montare la tenda sembra facile, qua nel film di Fantozzi c'è l'incidente, la martellata sul dito quando si pianta il picchetto, ma gli elementi di fastidio sono ben altri. Innanzitutto ti danno sempre un terreno umidiccio, discosceso, con dei sassi, quindi di dormire spaccandoti la schiena. Poi ai miei tempi, oggi sono tende bellissime, stupende, fantastiche, sembrano dei condomini. Da noi c'erano due alternative, la canadese da 2 e la canadese da 4. La canadese da 6 era troppo grossa, pesava una tonnellata. La canadese da 2 era terribile, si entrava uno per volta, si chiudeva la cerniera lampo, poi lì dentro era una camera a gas. Se c'era uno dei due che aveva dei problemi di igiene ai piedi o aveva delle intemperanze intestinali, la canadese improvvisamente diventava una sorta di camera gas, era invivibile. La canadese ha una caratteristica, è ghiacciata d'inverno e bollente d'estate, non conosce le mezze stagioni. Perché? Perché la canadese è fatta per avventurieri, per boy scout, non so bene per cosa sia fatta, oggi non esisteranno nemmeno più le canadesi. Era composta, diciamo, di due parti fondamentali. Una parte tenda, cioè aveva un catino sotto che era di gomma facilmente bucabile, quindi entravano animali, entrava l'acqua, non era mai stagna. E poi sopra c'era il telo tenda, che quello doveva salvarti dalla pioggia. In realtà non ti salvava da nulla, perché come cominciava a piovere un po' si affossava e la tenda si infradiciava tutto. I palettini non si piantavano, perché non si piantano i paletti naturalmente, c'è sempre un terreno roccioso sotto, quindi si piegano tutti, quindi si mettono degli oggetti di fortuna per tenere teso il telo tenda. Poi dentro la canadese bisogna metterci gli zaini, tutte le cose, i vestiti e via dicendo. Poi che si fa dentro la canadese una volta che si è entrati nella canadese? Certo, se si è in buona compagnia, in piacevole compagnia, dentro la canadese si può trasformare una sorta di meravigliosa alcova, diventa una sorta di bozzolo dell'amore. Sì, ma provate a fare qualcosa che richieda comunque l'emissione di sospiri, di rumore, di un frinire anche semplicemente sottotono. È impossibile, perché se state in un campeggio e siete all'unisono, una sorta di coro di singultanti amorosi. Se siete in mezzo a una foresta, beh, avete paura, perché improvvisamente la notte senti di tutto, sentono i lupi, le cicale, i grilli, gli zombie, di tutto. Beh, questa è la mia terrificante esperienza di tenda infantile. Voi siete ancora tra le persone che dice andiamo in vacanza con la tenda, partiamo con la tenda. I miei figli non sono mai stati in tenda. Avevo comprato a loro una tenda quando erano bambini. Una volta andai tutto contento in montagna, ragazzi montiamo la tenda, non ero per niente entusiasti, non gli piaceva, non trovavano la poesia di dormire la notte sotto la tenda. Oggi è molto pericoloso, nessuno dormirebbe più sotto la tenda. Oggi in realtà la tenda probabilmente è un orpello per vacanze estreme. Oggi sono soltanto tende tecnologiche, soltanto tende che ti fanno sentire degli avventurieri che sfidano comunque quelli che sono le vette più estreme dell'avventurismo vacanziero. Beh, ancora c'è gente che va in vacanza con la tenda, c'è gente che si mette la tenda sulle spalle, c'è gente che per risparmiare o semplicemente perché dice che ama l'avventura che va in vacanza con la tenda. Beh, questo voglio sapere. Popolo della tenda, oggi venite allo scoperto. 800 24 0024. Melog. Cronache meridiane. che la tenda è per uno escursionista il rifugio migliore perché protegge da insetti, vento e pioggia. È bene sottolineare che la tenda non isola dal freddo, ma protegge esclusivamente da questi tre elementi. Ci sono varie tipologie di tende. Per l'escursionismo diciamo che sono due le tipologie principali. Si parla di tenda canadese e di tenda ad igloo autoportante. La tenda canadese è la classica tenda degli scout. Crolla di colpo il mondo dello sport. Prova a stare in piedi per un mese. Dentro una tendina canadese. Scratu, scratu, scratu. E la vita corre sempre uguale. Questa è una canzone da giovani, naturalmente per un pubblico giovane. Vi rendete conto che oggi anche la tipologia della tenda è cambiata notevolmente? Mi sento anziano proprio perché ho descritto la tenda canadese, che è un orpello da vacanza che non esiste più. Oggi andate a Decathlon a vedere cosa sono le tende. Sono dei condomini bifamiliari, trifamiliari, pentafamiliari. C'è il salotto, c'è il cucinino, ci sono letti girevoli che si possono riempire di acqua calda. C'è di tutto, dunque. La tenda non è più quello lì, è un succedaneo della casa in muratura. Non so dove si vada in tenda. Ai miei tempi si poteva andare anche in riva alla spiaggia, ci si svegliava la mattina, si faceva male i conti e con i piedi bagnati, sempre umidi comunque, ti tiravano le sassate quelli che andavano a farsi la passeggiata, che odiavano i ragazzi in tenda. Negli anni 70-80 che andava in tenda era considerato un pezzente. Io ci andai anche in Austria, attraversai l'Europa in autostop, in tenda con degli sfigati amici miei, ci accampammo nella foresta nera di notte che è piena di moschini che ti pizzicano, ti succhiano il sangue, per farvi capire, e abbiamo rischiato la vita più volte. E però allora qualcosa di avventuroso oggi cosa significa andare in tenda? Matteo, buongiorno. Ciao Gianluca. Sei un tendista? Quando posso sì. Ma come si chiama? Chi va in tenda è un tendista, tendarolo, tendatore, come si dice? Per me andare in tenda è fare la vacanza pidocchiosa, nel senso sì, perché vuole girare tanto e risparmiare. Ci si va per pidocchieria, per spendere meno soldi, se non è che sia la fine del mondo, no? Esatto. Io ero andato in tenda quando avevo 19 anni, che a 19 anni è appena finita la maturità, di soldi non ce ne sono, io lavoravo tutti i weekend, avevo i miei soldini da parte e mi sono caricato la bicicletta. E che tenda avevi? Era una tenda a formato bara, cioè ci stavo solamente io ed era letteralmente... C'è un loculo monoposto? Esatto, era tristissimo. Quindi manco la speranza e l'illusione che sia sempre quando si va in vacanza da ragazzi di trovare compagnie piacevoli, dentro la bara da solo potevi starci e basta. No, ero io in modalità Tutankhamon per starci dentro, lo zaino diciamo usato come cuscino e ci si arrangiava, però in quanto così pesava un... Qui non era una barra, era un saccapelo un pochino più dimensionato. Ma in realtà un 30-40 centimetri, ci si stava dentro abbastanza bene. Non potevi nemmeno permetterti diciamo un'allegria mattutina, vabbè, pazienza. Ben poca roba, esatto. Eh beh sì, in quella dimensione poco si fa. Vabbè, allora Matteo, tu allora, quanto hai viaggiato con questa tendina? E quella lì era bella leggera, così si caricava in bicicletta e sono partito da casa mia sul lago di Como e sono arrivato ad Amsterdam. Vabbè, bello, un bel viaggio. Mese, sì. E poi hai girato la bicicletta e sei tornato indietro. No, beh, poi sono andato in Belgio, a Liegi, da lì ho preso il treno e sono tornato a casa perché l'università... Non ce la facevi più? Vabbè, comunque tu mi confermi il primo passaggio, la prima deduzione: si va in tenda per risparmiare, è la catena più bassa del risparmio andare in tenda, perché sotto la tenda cosa c'è? Il dormire sotto i ponti, ma non è più vacanza a quel punto, diventa una sorta di vita randagia che uno lo fa per sfortunate contingenze. 800240024, vediamo di delineare questa mattina il profilo antropologico del tendista italiano. Alessandro. E invece, ciao Nicoletti, io devo cominciare a, come Grimaldello, smontare questa... Beh, noi siamo per la dialettica, naturalmente. Bravo. Allora, quando io avevo 19 anni, avevo un Mercedes Pagoda, io ho 56 anni, sono andato... Eri un fighetto, Spagna, figlio di papà fighetto. Super fighetto, rosso... Ferma un attimo, cioè tuo padre ti ha regalato il Mercedes Pagoda a 18 anni? Sì, 19, ero in società con mio fratello, che era più grande. E tuo padre cosa faceva nella vita? Commercialista. Ah beh, vedi... Che anni erano? Felici anni 80? Sì, sono del 59, quindi era appena morto Franco, quindi si apre un po' la Spagna. Andavo in Spagna e avevo la tenda canadese che ho ancora adesso. Ah, lo sai, Alessandro, io mi ricordo che invece andai in Spagna una notte, ma accampai sulla Spagna, venne la Guardia Civile ai tempi di Franco e per poco ci massacrano perché non si poteva assolutamente mettere la tenda all'aperto. No. Però io ho andato appunto appena morto Franco e questi miei amici che poi ho conosciuto gli spagnoli erano sconvolti perché dicevano: ma tu vai in giro con una macchina del genere e hai la tenda, e non riuscivano a capire. Poi che cosa, ma infatti non si spiega perché, scusa, tuo padre non ti dava i soldi per un alberghino? No, perché io così amo essere un po' selvaggio, infatti poi sì, col Mercedes Pagoda. Beh, così, perché poi ho fatto la legione era un po' straniera, era un po' una macchina da pappone, diciamoci sì, la verità. Da pappone. Un po' sì, però da quando uno è giovane se ne frega. Sì, che è una specie di cacciafiga, no? Tu andavi lì. Sì, cacciafiga, scusa, tu la cacciavi col Mercedes e la portavi nella canadese, cioè triste. No, poi andavo a casa loro, non è quello. Però per dire che ancora l'anno scorso, per questa mia vita un po' anche l'amante del selvaggio, quindi c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione, sono andato in Spagna con la mia attuale fidanzata e non ho prenotato gli hotel e siamo la prima notte abbiamo dormito in automobile e lei ancora me la mena dicendo: ecco, mi hai fatto dormire in automobile, io non ho... Quindi c'è e anche questa volta che macchina avevi? Ventura. Che macchina avevi questa volta? Avevo un BMW bello, insomma. Se ti mantieni sempre bene dal punto di vista dell'automobile. Sì, mi mantengo bene. Sì, ma non capisco questa tua particolare sindrome. Non badi a spese sulle automobili e sei micragnoso nel perdottamento. Sì, questa cosa di vivere così, anche un po' alla ghiaccio, mi piace. Beh, io andrei in treno, ma andrei a dormire in un 5 stelle se fosse possibile. Quindi vedi no. Che non c'è. Lo so, non siamo per... ma questa è la bellezza. Fisso sulle cose ma che uno per fa. Fortuna, so sa che noia la vita sarebbe. Vabbè, Alessandro, ci ha dato degli squarci molto interessanti. Fabio. Buongiorno. Pronto? Sì, ti sto prevedo dalla scheda che leggo che tu c'hai uno degli aspetti più tristi del tendaggio. La vacanza in tenda con la famiglia, che non c'è di peggio. Ma no, ho trovato una famiglia con amici di mio figlio, amico di mio figlio coetaneo che vanno a scuola insieme, ci siamo trovati allineati sulle stesse esigenze di budget. Aspettative, per cui abbiamo girato l'Italia in lungo e largo in tenda. Quanti eravate? In 6. In una canadese a quanti posti? No, beh, eravamo divisi in due famiglie, ognuno organizzato con... E che tende avevate? No, voglio sapere il modello. Abbiamo di tende. Le tende, quelle due secondi Decathlon. Quelle che si aprono in un istante? Beh, sì, però esatto. Sono anguste però. Il problema è richiuderle, bisogna fare un corso accelerato. Che si aprono facilmente ma non si chiudono, sono a molla. Però insomma, dopo qualche brutta figura poi... A fine vacanza lo chiedo. Sì, ma in quanti ci stavate dentro a due secondi? Perché non è tanto grande. A due secondi ci stavamo io, mia moglie e mio figlio piccolo. Beh, uno sull'altro. Che è cresciuto, abbiamo aumentato la tenda. La portata. E adesso i ragazzi stanno nella tenda separati e i genitori. Qui andiamo con tre tende. Beh, una comunque, per i ragazzi, è come dormire assieme perché diciamo il diaframma acustico della tenda è pari a zero. Sì, però scegliamo sempre campeggi molto particolari, campeggi tra virgolette a 5 stelle, dove si sta in piazzole molto particolari, rifinite, all'ombra, con l'acqua corrente, insomma cerchiamo sempre di trovare qualcosa di particolare, dove non si fa rumore la sera, insomma... Cioè che alla fine si sta bene, è bella attrezzata. Si sta bene, si mangia molto bene soprattutto. Ma cucinate col fornellino, camping gas, queste cose qua? La colazione, il pranzo, sulla scena ce la concediamo nel ristorante, generalmente è sempre un agriturismo oppure un bed and breakfast, insomma sono queste situazioni. Una delle cose più difficili è spogliarsi dentro la tenda o cambiarsi dentro la tenda, soprattutto nelle tende piccole, lì bisogna essere veramente degli equilibristi. Diciamo che ci siamo organizzati con la tenda spogliatoio. Ah, tenda spogliatoio, quindi andate via con una tenda a testa, tenda spogliatoio e una tenda per la dispensa cucina. Vabbè, ovviamente è un accampamento pelle rossa. Indiano, esatto. Sì. Vabbè, sto capendo di più. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Sì. Niente, 89, la tenda canadese in Marocco. Chi era? Lei con una sua amica? No, con mio marito, da poco, sposato. Cioè, uno si sposa da poco, porta la moglie in Marocco con la tenda. Sì. Beh, com'è stata l'esperienza? Come stai? Sì. 9.000 chilometri. Ma dall'Italia con la Vespa, con che andavate? Con una motocicletta? In con macchina? Una Clio senza aria condizionata. Bella. Sono quelle cose che cementano la coppia, devo dire. Sì, vero, vero. Allora, in Marocco, non so, c'erano come dei muri che chiamavano campeggi. Eh sì, conviene sempre mettersi con le spalle al muro. No, e noi a questo punto io mi arrabbiavo, ritiravo il passaporto e andavo a campeggiare fuori nel deserto, tanto era deserto dentro, sì, e fuori. Sì, anche André Gide andò nel deserto e tornò che era molto cambiato. Bisogna stare un po' attenti, diciamo, sono posti selvaggi con usanze particolari. Quindi sua moglie, suo marito ha detto, ti porto in vacanza, andiamo nel deserto del Marocco. Poi ci ha portato anche la suocera, nel senso che ha portato mia mamma 2 anni dopo, siamo andati in casa dei marocchini. Sì. E siamo stati qualche giorno, però poi sempre girare campeggi. E la suocera l'ha lasciata lì oppure se l'è riportata a casa? No, riportata. Poteva lasciarla però. Gli era simpatica lui. Lo so. Beh, dico sempre. Certo, cioè veramente il mettere alla prova. Che non ho mai provato, perché mi svegliavo, mi portavano le focaccine con le olive. I locali marocchini? Sì, marocchini. Bussano nella tenda, apriva e trova focaccina con le olive. Beh, meglio, è come meglio che stare in albergo. Quindi paura non so, forse siamo incoscienti, non abbiamo mai avuto. Beh, erano anni che c'erano meno tensioni, tutto sommato. Sì. Il turista era considerato nel un genere importante. In Turchia la stessa cosa, campeggio. Mia mamma nella Parigi-Dakar e noi nell'Oasi del Bertone, insomma, quelle canadesi lì. La Parigi-Dakar che cos'è? È quella tendina rossa piccolina dove uno ci sta dentro un po' rannicchiato, ma mia mamma era abbastanza tenesca. Quella tendina piccola, modello di tenda piccola. Sì. Per venire con noi lei veniva anche. Quindi così. La signora è aggomitolata dentro una sorta di contenitore di plastica rossa. Esatto. Frente l'avete insaccata. Vissuta fino a 87 anni in salute. Però. Beh, grazie dopo queste prove. Se uno sopravvive al deserto marocchino dentro la Parigi-Dakar, che è una tenda di plastica rossa, praticamente un alto forno, è chiaro che sopravvive. Comunque lo consiglio a tutti. Cioè, è una cosa. E il vostro bellissimo. Matrimonio ne è uscito fortificato da questa esperienza? Siamo ancora insieme, sì, lui è andato in pensione, io... E che fate adesso, la bravi pensionati, dove andate? No, io non sono pensionata, perché io ho 11 anni meno di lui. E quindi lui lo lascia a casa e lei se ne va dove? No, lui mi fa da autista ancora. E lei sta seduta dietro, naturalmente. Io mi preparo al lavoro, a fare quello che devo fare. Come nel Viale del Tramonto, ormai l'ex si presta a fare l'autista. Pensiamo di ritornare in tenda da qualche parte, non so dove. Sì, adesso suo marito dopo lo mette in tenda e non lo ritira più fuori. Si incricca, ormai c'è una certa età. No, ma lui è più in gamba di me, è più giovane. Se uno lo vede dice che è più giovane lui sì, di me. Sì, però gli anni sono quelli, è un'illusione. Sì, 63 sono 63. Cioè, quello lavoro io fa un anno. Beh, ci sentiamo fra un istante, 800 24. Grazie. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta... L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Perché non tienes la chiesa? Tu tienes lo occhiales? No, è liquido. Ah, è liquido. Salad liquido. Non tengo. Ma perché? Allora, dai Mirko, fai un po' meglio però. Se tu fai... Ah, ok. If you want... La tenda. Allora vengo. I come now. Se miriamo qui... Adelante. Ok, si comprende? Che gli hai detto? Che se becchiamo qua dopo, Kiko. No, dopo, adesso. Un saluto? Aspetta. Allora, questi sono dei giovani quattelli romani in campeggio in Spagna. Una sprovveduta ragazza spagnola, pensando di aver a che fare con persone normali, domanda loro cortesemente se hanno del liquido per le lenti a contatto. loro non capendo niente la prendono quasi come un tentativo di approccio e hanno già, diciamo, secondo loro messo già la selvaggina nel carniere, non avendo capito assolutamente nulla. Questo è un episodio di vita da campeggio. Oggi stiamo parlando in realtà degli italiani che ancora vanno in vacanza con la tenda, che ancora usano la tenda. Vediamo delle tende fantastiche esposte nei grandi rivenditori di attrezzature sportive, ma non capiamo, non vediamo e non sappiamo chi poi vada dentro queste tende. Abbiamo avuto delle testimonianze fulgide di una suocera portata in una tendina di un metro per un metro nel deserto marocchino, esperienza indimenticabile. Abbiamo varie esperienze di vacanza massacro e famigliole felici che vanno tutti in vacanza in tenda. Vogliamo saperne di più sugli italiani che ancora vanno in tenda. 800 24 00 24. Luigi, buongiorno. Ciao. Dimmi tutto quello che sai sulla tenda. Trasmissione. Grazie. No, quello, tutto quello che so. Ho l'esperienza che, insomma, con gli scout abbiamo fatto diversi campi in tenda. Ma gli scout che tende canadesi, hanno però? Hanno delle tende canadesi, canadesi e no, grandissime, perché ci stavamo in 8 ragazzi con 8 zaini. Ma quindi le canadesone, quelle pesanti da portarsi? Pesantissime. Solo di paletteria, di paletteria saranno 15 kg. Almeno, quella toccava sempre a me. Perché ero più piccolo. Sì, perché spiego per i profani. La tenda si porta in tre grossi volumi. Si porta la tenda, il telo tenda e i paletti, che è la cosa più pesante. E la paleria era quella che non voleva mai nessuno. Certo, è ferro puro. Più piccolo. È ferro allo stato puro, distrugge le spalle, è una cosa terribile. Io ho esperienza ancora di un campo in cui abbiamo cercato di fissare la tenda in un posto in cui non si riusciva perché era tutta ghiaia, era sempre impossibile, un disastro. E ha diluviato 3 giorni questo campo, no? E una notte ci siamo svegliati con la tenda allagata. È una delle tragiche situazioni, la tenda in ammollo è terribile perché ti si bagna tutto quello che tu hai. Siamo usciti a scavare una fossa intorno alla tenda con le mani, tenendo la torcia con la bocca sotto l'acqua, e cercando di bagnarci il meno possibile. È stata un'esperienza abbastanza forte. Ecco, tu mi hai dato un flash improvvisamente. Sì, mi ricordo quando mettevamo la tenda, attorno alla tenda si faceva sempre una specie di canaletta, perché se pioveva almeno è fondamentale la canaletta, vero? Che non avendo mai gli strumenti adatti si scava con le unghie, con le mani, con un paletto, si faceva una specie una canalettina che se piove molto non serve a niente. Così l'idea che con la canaletta, anche la costruzione della canaletta era molto interessante. So se mettevano dei sassi. Poi mi sono salvato, poi perché adesso faccio servizio con i bambini, per cui d'estate dormiamo nelle case, mentre invece solo dal campo da riparto si fa in tenda, per cui io adesso sono 8 anni che tengo lupetti, però per fortuna la tenda mia è risparmiata, perché il campo estivo lo facciamo in casa. Sì, non so, la tenda mi sembra una cosa un po' obsoleta, appartiene ad altri tempi, oggi non è poi un granché, perché sono delle strutture leggere, molto più funzionali. Era una tenda il bello della tenda è che uno, ecco, può andare in un bosco, attraversa una montagna con la tenda sulle spalle e si ferma. Ma è come fare l'alpinista, quello non è una vacanza. Mario, buongiorno. Buongiorno. Beh, io ho delle esperienze passate come campeggiatore in tenda. Le racconti, perché siamo qui per annotarci dei reperti antropologici in via d'estinzione. Non ho avuto esperienze drammatiche, anzi, puoi capire che cos'era la Costa Smeralda nel 77 col Vespone. Ma la questione... E tu eri in tenda? Sì. È che la vita così spartana, dura, in cui c'era una grossa dose di adattamento, o cementa delle amicizie per sempre, o le rompe per sempre. Beh, si litiga sempre in campeggio, si litiga come bestia. Se ti riesci ad adattare e scopri le persone in tutti i suoi aspetti. E lei ha fatto delle scoperte in questa sua vita tendata? Sì, c'avevo degli amici che erano di una simpatia incredibile, le risate dopo 2 giorni erano insopportabili. Lo so. Finita lì. Ma sa, dividere la promiscuità è una cosa molto, molto hard. È difficile, bisogna litigare. Oggi chi pulisce, chi lava, chi mette in ordine la tenda, chi prepara da mangiare. O ci si dà dei compiti precisi, ma c'è sempre un problema di gerarchia. Nessuno vuole essere comandato dagli altri. E c'è quello che non gli va di lavarsi i piedi, quell'altro che fa le puzze sotto la tenda, vaglielo a dire. Capisce che sono cose che andando a prendere l'aperitivo nel caffè fighetto non ci se ne accorge, ma sotto la tenda viene tutta la galla. Ma sono esperienze appunto che cementano. Anche con una ragazza, uno va con una ragazza, la porta in tenda, o ne esce distrutto o se la sposa staranno insieme tutta la vita. Io l'ho fatto come prova prematrimoniale. Ha portato sua moglie sotto tenda? Sì, l'ho convinta a fare un breve campeggio. E vedere com'era sotto la tenda? Vedere com'era. E com'era? E... com'è stata? Non mi sono sposato. Ah, l'ha lasciato perdere. E qual è stato? Diciamo, e quali sono stati però gli elementi di disturbo per cui ha capito che non era la donna adatta per lei? Ma tante cose, tante, le intemperanze, tante intemperanze notturne. Cose. Sì, no, russava? Proprio, no, quello no, ma proprio atteggiamento di carattere. E scopri tante cose. Anche sotto la tenda, quando uno va sotto, deve starci per forza. Non è come una casa, esce uno, fa una passeggiata. Dove va? Lì deve stare tutta la sera lì sotto e se lo vede, se lo sciroppa, è terribile. Lo vede vestirsi in maniera goffa. Non c'è niente di romantico sotto la tenda, è difficile. Quindi è importante per Mario andare in tenda, una prova prematrimoniale. Manuela. Manuela da Bologna. Bene. Io ho fatto addirittura il viaggio di nozze in una canadese, un metro per un metro in Sardegna. Una botta, partiva con solide basi economiche il suo matrimonio. No, in effetti io speravo in qualcosa di più. Ma le aveva detto il suo fidanzato, sarai la mia regina, no, ti porterò nella detto. Mia reggia, si è presentato no. con la canadese. In un campeggio in Sardegna dove ci si arrivava con una strada sterrata e la luce, parliamo del 77, e l'unico punto di riferimento era il, come si chiama, il cimitero. Quindi si arrivava, quando c'era il cimitero sapevamo che sulla sinistra c'era questa sterrata per arrivare al campeggio. Sì. Tendina con dietro la testa, mio marito è 1,85 m, io sono 1,60 m, dietro i tegami, quindi la pentola, i pochi tegami che possono servire. Ma lei in questo meraviglioso ambiente ha consumato anche la sua prima notte di nozze? Certo, con questi tegami che si muovevano. Ma come ha fatto a dire, caro, aspetta un attimo, vado un attimo a prepararmi? E dove andava che sta dentro la tenda? Ah no, niente. Non si è preparata? No, assolutamente. Non mi ricordo niente di particolare. Beh, perché non c'è niente da ricordare probabilmente. No, in effetti sarà cioè, fatto. È una memoria selettiva, ha cancellato sì, tutto. Sì, cancellato. Sennò oggi non starebbe più con suo marito, penso, no? No, io sono già più di 40 anni, no, 39 anni che sto con mio marito, felicissima, e la tenda è rimasta sempre un po' nel cuore come campeggiatori. Abbiamo fatto anche delle esperienze 5-6 anni fa in tenda. Ma che tipo di esperienza? Tipo andare in Africa nei parchi, eravamo in Zambia, Botswana. Vabbè, uno deve dare delle alternative al proprio matrimonio se la coppia deve rimanere insieme, è chiaro. Quindi certo. Il suo marito dopo il viaggio in nozze, la tenda canadese, dice adesso ti porto in Zambia dentro la tenda. È stato un'iniezione, diciamo, di rivitalizzante per il suo matrimonio. Certo. Vabbè, ecco, il campeggio ha per noi, indipendentemente che non lo rifarei più assolutamente. Beh, dopo la Zambia non c'è altro, è l'apice. Sì, ecco. Però è legato a qualcosa di veramente dolce, ecco. Tutto quello che vuoi, però questo ricordo dolce, penso che la gente dovrebbe provare, però adesso non dico il viaggio di nozze, no, assolutamente, però è un'esperienza da fare in una tenda con l'innamorato, ecco, potrebbe essere una cosa carina. Sì, però intorno c'è il mondo che ti ascolta, ti vede, ti guarda. Sì. Non è che c'è tanto spazio alla fantasia, all'espressione. No, però quando sei dentro lì, sei chiusa, credi che nessuno ti senta. Ma fuori c'è la fila di gente che sta lì, guarda, con le pile, con i registratori, è così, No, senz'altro, perché sarei anche io così se c'è rumori. Lei non ha consapevolezza dell'imbarazzo quando uno passa la notte nel campeggio e sente i mugulì che escono dalle tende, la gente che russa, la gente che fa i rumori che non si possono dire. Non è bellissimo, No, non è bellissimo, però insomma si può fare, ecco, per una si volta può fare, si può fare, allora, fare sì. si parte in una romantica canadese e si finisce in Zambia e improvvisamente ci si accorge quella è la persona della propria vita. Grazie, ci fermiamo un istante. 800 24 00 24, stiamo facendoci un'idea vera, concreta, realistica, statistica, scientificamente statistica, di quello che è il modello antropologico in via di estinzione dell'italiano che va ancora in vacanza in tenda. Melog, cronache meridiane. Ciao, siamo andati a prendere la Marina e abbiamo riempito la macchina con tutte le cose per il campeggio, la tenda che era aperta, che abbiamo... ho portato tutto il resto, carta igienica, cucchiai, posate, Scottex, asciugamani. Sarà divertente dopo quando arriviamo vedere come non riusciamo a montare la tenda. Siamo arrivati al campeggio, guardate, è gigantesco, cioè è enorme, c'è anche la piscina. Ci hanno dato dei braccialettini come quando vai a fare le gite a scuola, per dico non perderti dentro al campeggio, sennò ti riportiamo nel tuo punto. Quindi niente, ora adesso con la nostra tessera entriamo dentro, scegliamo la piazzola. Iniziamo da campare. Qua è sempre un gruppo di giovani allupati che va in campeggio perché pensa che l'elemento negativo della mancanza di privacy e della promiscuità con le altre persone si possa trasformare in elemento positivo se si ha la caccia grossa. Quindi pensano che il baluardo del sottile telo della tenda sia facilmente violabile per le loro possibili prede, che naturalmente poi si torna sempre a bocca asciutta. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, senta, devo dire la mia esperienza per quanto riguarda la tenda canadesi. Noi eravamo un gruppo di amici, tutti della stessa età, 18-19 anni, ci mettevamo la tenda in spalla e andavamo in spiagge, in Toscana, in Puglia, dove c'era più comodo. Poi se si ricorda, uscì un carrello che usciva già la tenda dentro, però si portava dietro la macchina. Sì, però era enorme, era quasi una casetta, si apriva così. Era chiusa, si apriva, diciamo, un carrellino dietro la macchina, si apriva tutto, la base del carrello diventava il fondo della tenda. È una tenda familiare, era grande, era. Sì, andavamo in tre, a volte anche in quattro. Era comoda quella, che stava rialzato da terra, era abbastanza messa bene. Era ingombrante, c'era un carrello però era. Sì, era un carrello che la portavamo dove volevamo, ci fermavamo, si dormiva la notte. E comunque poi l'ultimo anno alla fine ci fregarono la macchina di notte, si alzarono il carrello, l'appoggiarono a terra e si fregarono l'auto. Vi siete svegliati dal carrello e non c'era più la macchina? No, era una 112, non so se si ricorda. Ah, la 112, claro, magari color nocciola, che era il colore preferito. No, era blé, era un Elegant. Mi ricordo. Ah, la Elegant, beh, quella è già una macchina dei signori. Comunque, niente, il classico poi... era color caffè latte col tettino color marroncino, che era proprio Io ero uno dei le varie nuance della diarrea che andavano molto in quegli anni lì. Gli anni in cui erano le cose marroncine, tutto era marrone, non so, erano anni marrone, erano gli anni di piombo, infatti, per qualcuno. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Io sono una vittima del campeggio, nel senso che dopo le prime esperienze ai tempi degli scout ero convinto di non mettere mai più piede in una tenda. Giustamente. E invece mia moglie è un'appassionata del campeggio, perché lei è sempre andata con i suoi genitori in tenda, eccetera eccetera, e quindi da quando ci siamo conosciuti, tutte le estate ci riempiamo la macchina con ogni ben di Dio, tenda compresa, e adesso anche il cane. No, il cane poi è terribile, che puzza di cane bagnato dentro la tenda, una cosa terribile. Vabbè, pazienza, ognuno. Ma lei perché glielo fa fare, mi scusi? Lei non poteva fare un patto prematrimoniale, anche se è proibito, dire almeno andiamo in vacanza in un ostellino, in una pensioncina, no, se non vogliamo spendere, perché proprio nella tenda? Beh, diciamo che abbiamo trovato un punto d'incontro, nel senso che facciamo qualche giorno di tenda, poi quando la mia schiena non ne può più, quando io non riesco più... Allora, sì, ma cosa ci trova sua moglie di fantastico da una tenda? Questo vorrei capire. Ma perché le piace l'ambiente, le piace stare all'aria aperta, essere liberi, non avere costrizioni. Sì, ma andate nei camping, perché tenda libera non si può mettere. No, sì, andiamo nei camping, però cioè, tendenzialmente scegliamo quelli più sfigati sulla faccia della terra. Ma che gusto c'è? È come stare in un posto, in un campo di profughi. La gente, poverini, ci vanno per necessità, ma voi che potete farne a meno perché... Ma perché a lei piace così, le piace la natura, le piace... Ma che natura c'è in un camping? È tutto finto, Beh no, dipende, ad esempio siamo capitati qualche anno fa, eravamo in Olanda se non ricordo male. E tutti vanno in Olanda, sì, beh l'Olanda magari sono bei campeggi forse, non lo Sì, ma eravamo in questo campeggio abbastanza sperduto, pieno di conigli, che ci sono persino entrati in tenda e ci hanno rubato tutte le provviste. Ma si potevano mangiare i conigli oppure non si poteva? No, no, beh, se veramente si sono serviti loro e ci hanno rubato il formaggio. Vuole mangiarvi il coniglio la sera. Siamo anche vegetariani, quindi niente coniglio. Guardi, ognuno si sceglie la propria sala di torture, l'ha scelta scegliendo una moglie che la costringe a stare in tenda. Carla, buongiorno. Sì, buongiorno. Io odio il campeggio e mi ero appena messa con quello che sarebbe poi diventato il mio marito e mi offre un favoloso fine settimana con in moto e con una mini tendina canadese. Lui, io sono piccolissima, ma lui è alto 1,85. Ci porta, no, andiamo a... Ma lui stava con i piedi fuori, quindi, con i piedi fuori della tenda? Sì, ma poi andiamo a Siniscola, arriviamo di notte perché io proprio non ci volevo andare, ci danno una aiuola, cioè montiamo tutto di notte, io imbranatissima, non sapevo assolutamente cosa diavolo fare, picchetti, tendine, eccetera. Durante la notte, temporale pazzesca, la notte, quindi ho preso sonno verso le 5, ma alle 5:05 mi sono risvegliata, una pioggia terribile, alle 6 tiriamo su tutto, scopriamo che eravamo in un'asola che raccoglieva tutta l'acqua dei ruscelli del campeggio. Prendo un laghetto artificiale si stava formando. Lavata da cima a fondo. Ho rischiato di mandare a monte quello. Però Carla, io sto capendo, però se dovessi dare un valore statistico alle vostre telefonate, che c'è una categoria di persone che ama portare l'oggetto delle proprie passioni sotto la tenda, matrimoni obbligati, sì. Perché sono questi uomini o queste donne che ti voglio portare sotto la tenda? Che è una cosa che... Ma non lo so, ma che... volevo dirti anche un'altra cosa, invece un nostro amico contemporaneamente è andato a Calaluna, ti sto parlando di più di 20 anni sì. fa. Lui aveva anche lui una tendina piccolina, va da solo, a un certo punto c'è un caldo pazzesco, era metà di agosto, decide di portare sacca a pelo fuori. Di notte si sveglia, un caldo pazzesco, un cinghialozzo bello peloso, si era accovacciato sopra di lui, pensando fosse... Uno rischia anche la sodomia da cinghiale, che non è che poi la cosa piacevole, perché non lo so, sì, può essere, ma... No, perché c'ha quelle setole irte, capito? Non è vellutato, e nel suo impeto il cinghiale è piuttosto irruento, non è che è delicato, almeno la prima volta ha rischiato veramente molto quest'uomo. Francesco, chiudiamo con Francesco. Salve, senta, io chiamo dalla Puglia. Partimmo con una coppia di amici, io e adesso con mia moglie, insomma. Partimmo, non era mia moglie, eravamo più piccoli. Partimmo dalla Puglia in treno, andammo a Siena in campeggio, una settimana, piove tutti i giorni. Noi avevamo una tenda piccolissima e ci pioveva pure dentro durante la notte. E l'amore ne è stato irrigato e germogliato oppure si è infradiciato? No, ci siamo sposati, insomma, abbiamo visto che potevamo superare qualsiasi... Avete detto, se riusciamo a convivere in una tenda, la vita per noi sarà sempre qualcosa in salita e quindi è giusto sia così. Beh, abbiamo capito qualcosa. Gli italiani che ancora si amano, che ancora hanno voglia di stare assieme, passano per questa terribile ordalia della vacanza in tenda. Quindi, caro Adinolfi, comprati una tenda, distribuisci tende e avrai successo. Alla prossima.